Sono dovuto scappare sostanzialmente da Rio de Janeiro perché il sistema di salute pubblico era già collassato più di 3 mesi fa e c'erano delle file di più di 300 persone aspettando respiratori, ma anche il sistema privato è collassato. Quindi al momento anche la classe media, le persone più privilegiate dentro il contesto brasiliano, si trovano in problemi gravi col coronavirus. In questo caso, chiaramente, il carcere si inserisce come una problematica enorme perché vediamo che ci sono più di 800.000 persone incarcerate attualmente in Brasile e effettivamente queste persone sono afrodiscendenti, periferiche, povere. Dentro il carcere già si moriva di cattiva salute, non c'erano i servizi di salute già prima. Quando stavo facendo ricerca, probabilmente sono entrato in contatto e ho preso la tubercolosi dentro queste strutture. Possiamo immaginarci cosa può essere vivere ai tempi del coronavirus in queste unità detentive, dove quando sono andato a fare una visita in un'unità in Minas Gerais, incontravamo delle condizioni luciferine, no? Delle luci nella penombra, persone che stavano una sopra l'altra, che neanche in uno zoo chiedevano aiuto, ma non si potevano toccare perché comunque c'erano guardie armate fino ai denti e ci tenevano a distanza in quanto visitanti internazionali, no? In questa situazione, cioè, vediamo che cioè, la tubercolosi è endemica dentro le carceri, non è solo un problema delle persone detenute, ma attacca anche i funzionari, gli agenti penitenziari, i professori in carcere e anche in questo caso anche purtroppo i ricercatori. È curabile, però purtroppo quando i servizi sanitari sono precari, questo costituisce un problema gigante e abbiamo visto che nel coronavirus già vediamo che in Brasile varie persone giovani sono morte. 2 settimane fa è morto in carcere un ragazzo di 28 anni che era stato incarcerato per pochi grammi di marijuana. Sappiamo anche che l'incarceramento, come ci spiega la criminologia, è ben selettivo, non è uguale per tutti. Quindi c'è sempre nell'incarceramento troviamo quello che si chiama selettività penale e quindi la classe sociale conta, la razza conta, il genere anche conta. Sono delle caratteristiche che portano le persone in carcere. Quindi un sistema concentrazionario in cui finiscono soprattutto le fasce più povere e straniere, diciamo comunque non bianche della popolazione. Sì, esattamente. Lì si tratta, chiaramente non c'è questo grande problema come nel carcere italiano europeo dove il 30% sono migranti, no, più o meno. Però ci sono gli afrodiscendenti, no, persone che comunque sono state obbligate a migrare negli anni e hanno incontrato poi un processo di inclusione sociale solo formale, no? Dove sono stati liberati, però non sono stati inclusi nel mercato del lavoro e quindi vediamo che con per esempio il governo Lula aveva lanciato delle politiche con una visione riparativa, no? Come per esempio le quote nell'università per cercare di risolvere questo problema storico del Brasile, no? Che è uno degli ultimi paesi a abolire la schiavitù formalmente, però vediamo che di fatto, no? Con queste 800.000 persone incarcerate e con tutta la violenza che si ripercuote nella società, nelle favelas, dove pensiamo che negli ultimi 10 anni sono morte più di 600.000 persone per violenza intenzionale, per omicidi, sia per gli scontri a fuoco con la polizia, sia per gli scontri a fuoco determinati in gran parte dalla lotta alla droga, no? Che sappiamo che, come ci spiega Vacan, è una lotta principalmente ai poveri e agli esclusi, perché le droghe circolano liberamente in tutto il mondo. E questa lotta alla droga che va avanti da anni sembra solo ed esclusivamente uccidere persone, sia tra i cosiddetti trafficanti, ma anche tra le forze dell'ordine che appartengono alla stessa classe. Torno un attimo alla questione del coronavirus, quindi immagino che le misure di precauzione come il distanziamento, hai già detto di no, ma anche le mascherine non ci siano nelle carceri brasiliane. Ma le mascherine sì, ci sono nelle carceri, dipende però, c'è un'autonomia molto grande sia a livello dello Stato, sia a livello del Dipartimento Penitenziario e sia a livello poi dell'organizzazione delle singole carceri. Bolsonaro direttamente ha cercato nelle ultime settimane di non rendere obbligatorie le mascherine nelle carceri, far entrare i funzionari in qualche modo senza mascherina nelle carceri. Questo chiaramente costituisce, no, un'altra azione che ci fa pensare a un possibile compimento di quello che già in campagna elettorale aveva detto, no? Che il bandito buono è il bandito morto, no? È chiaro che nella visione di Bolsonaro i banditi sono anche le persone che difendono i diritti umani, quindi lui l'ha detto più di una volta, ha detto che l'errore della dittatura è stato torturare e non uccidere, quindi vediamo che poi il sospetto di un chiaro intento genocidiario, come ha denunciato Frei Betto in questi giorni, è molto chiaro quando vediamo che ci saranno più di 400.000 agenti penitenziari, mi immagino che in gran parte hanno votato Bolsonaro, quindi sono stati suoi sostenitori e si vedono traditi, no? Perché anche loro hanno famiglie, anche loro non vogliono morire, anche loro non vogliono prendere il coronavirus, quindi la comunità carceraria come un tutto, anche noi in quanto professori e ricercatori siamo attaccati da queste politiche che vedono nel carcere il centro di smistamento di tutto il male della società nella visione di Bolsonaro, chiaramente. Voi però state raccogliendo dei fondi, c'è una campagna in questo senso? Sì, è in contatto con le persone che lavorano nella favela, c'è una chiara connessione tra carcere e favela, carcere e periferia. Mi sono sentito col movimento Mulek e con altri movimenti di cui faccio parte, in questo caso Emancipa De Gas, che è un movimento di educazione popolare, e stiamo cercando di organizzare delle azioni varie. Una delle azioni che è già partita, è già esistente, si chiama L'amore ai tempi del colera, si può trovare su Facebook, aiutiamo le madri in favela, ed è dopo un'intervista, un incontro con una delle rappresentanti del movimento Mulek, che è un movimento che raccoglie le madri che sono state vittime della violenza dello Stato. Mi hanno detto che hanno bisogno di tutto, hanno veramente bisogno di tutto, non hanno mascherine, non hanno neanche alcol in gel, non hanno neanche cibo da distribuire, e nonostante ciò il grande coraggio delle madri afrodiscendenti che si trovano in favela ci dimostra che loro stanno consegnando, sfidando la pandemia, stanno consegnando per le famiglie più povere. Ricordiamo che la solidarietà tra i poveri nella favela è una cosa spettacolare, fantastica, durissima. Possiamo vedere che in questa realtà durissima molte persone anche lavorano come infermiere, non scappano, stanno lì anche se non hanno mascherine. Sappiamo che le infermiere stanno morendo, muoiono tantissimo, è un problema medico, perché non hanno l'equipaggiamento basico, e non solo non hanno l'equipaggiamento, anche respiratori che anche il governo Bolsonaro aveva comprato sono stati poi sottratti e comprati dall'amministrazione Trump in un atto che io definirei di pirateria internazionale, sinceramente. Se andate sulla pagina Facebook c'è le iniziative di solidarietà, sono quelle che già sono partite, questa raccolta fondi, però c'è sia un gruppo WhatsApp sia un gruppo per pensare assieme come organizzarci, assieme anche con le persone direttamente che stanno a Rio. Sono totalmente disponibile per qualsiasi tipo di azione e possiamo pensarla assieme.